e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo arrivati a dicembre, nonostante questo c'è ancora chi passeggia sul lungomare e apprezza appunto il mare d'inverno, magari proprio in compagnia di cuore e denari, come fa il nostro ascoltatore Carlo che ieri ci ha fotografato il lungomare di Latina, ci ha mandato la foto, dove ci scrive passeggia ogni giorno con grandi benefici proprio ascoltando il programma. Chissà se gli fa meglio appunto l'ascolto di cuore e denari o la passeggiata appunto sul lungomare. Detto questo, probabilmente sarà una combinazione di entrambe le cose. Noi salutiamo affettuosamente Carlo, ma volevo segnalare con grande soddisfazione, lo dico anche da parte di Nicoletta che oggi mi ha momentaneamente lasciato da sola la conduzione di Cuore e Denari, non ci ascoltate solo dalle coste italiane, perché anche dall'altra parte dell'oceano ci sono Ana e Jim, e salutiamo anche loro che hanno scoperto la nostra trasmissione in Italia e continuano a seguirci dagli Stati Uniti. Allora, ci fanno tanti complimenti, noi li salutiamo con affetto, li invitiamo naturalmente ancora a scriverci, peraltro abbiamo avuto uno scambio di mail molto veloce, quindi non sappiamo da quale esatta località degli Stati Uniti appunto ci ascoltano, quindi Ana, Jim, scriveteci ancora, ci piace molto questo scambio epistolare con tutta questa distanza, ma chiedo anche a voi da dove ci ascoltate, allora scrivetecelo, inviateci una foto, oppure se volete telefonateci anche all'800 24 00 24, per le altre modalità potete scriverci al 349 238 6666. Riceviamo gli sms, le vostre foto su WhatsApp, ma anche su Facebook e Twitter. Oggi tenetemi compagnia, perché vi dicevo, Nicoletta non c'è, ma abbiamo tanti argomenti da affrontare. In apertura parleremo di un tema di cuore che ci sta molto a cuore. Oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS e naturalmente in primo piano c'è la questione appunto del test gratuito in farmacia di cui parlano oggi tutti i giornali. Detto questo, sarà il tema del nostro primo approfondimento, ma prima una velocissima, rapidissima rassegna stampa anche di denari. È proprio veloce perché vi voglio raccontare cosa succede adesso in borsa, ma questo, come sapete, il tema mercati sarà al centro di tutta la lunga puntata di Investire Informati a partire dalle 11:10 circa. Abbiamo un quadro negativo fra le borse europee, meno 0,4% per il FTSE MIB a Piazza Affari, meno 0,6% Parigi, meno 0,7% Francoforte, Londra meno 0,61%. Spingono anche oggi sull'acceleratore i titoli dell'oil, i titoli del petrolio, i titoli energetici dopo la decisione storica arrivata ieri dall'OPEC di ridurre la produzione giornaliera appunto di greggio, 1,5 milioni di barili in meno al giorno per la prima volta da 8 anni, non si toccavano appunto i tetti produttivi, il petrolio è tornato a $52 a Londra, oltre 50 a New York. I tre migliori titoli di Piazza Affari: BPR Banca, la popolare dell'Emilia Romagna, più 2,80, Eni più 2, Tenaris più 1,6, bene anche Generali più 1,34. Noi parleremo più tardi di Investire Informati anche della situazione di Monte dei Paschi e di tutto quello che succede sui mercati finanziari, naturalmente, che condizionano l'andamento anche del nostro risparmio. L'abbiamo scomodata tante volte questa meravigliosa canzone, Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen, una canzone che ha vinto il premio Oscar per la colonna sonora del film Philadelphia, un film che tratta il delicato tema dell'AIDS e che ha visto come protagonista Tom Hanks insieme ad Antonio Banderas, segnalo anche lui che era appunto il compagno di questa coppia di omosessuali in cui Tom Hanks naturalmente vive tutte le sue vicende negative anche nel suo ambiente di lavoro per il aver contratto appunto il virus. Partiamo da qui per raccontare la giornata di oggi, primo dicembre, come ogni anno dal 1988 si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS. La data della ricorrenza è stata scelta perché il primo caso di AIDS fu diagnosticato proprio il primo dicembre del 1981 e, come diceva Kofi Annan, l'epidemia globale di HIV-AIDS Era ed è una crisi senza precedenti che richiede risposte altrettanto senza precedenti. Oggi con il nostro esperto parliamo di tutto questo per fare un nuovo punto della situazione. Professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, che torna a farmi compagnia proprio quando io sono da sola senza Nicoletta, quindi ormai si è affezionato, professore, buongiorno. Assolutamente sì, sono affezionato, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata. È il destino che ci fa trovare questi argomenti che io devo affrontare da sola e che è giusto che affronti insieme a lei. Comunque mi fa molto piacere e grazie. Professore, mi sembra corretto fare come prima cosa appunto un commento sulla notizia che è su tutti i giornali di oggi. Nelle farmacie italiane inizia ad arrivare il primo test fai da te per l'HIV. Costa 20 euro, lo potranno fare solo i maggiorenni. Ci spiega come funziona, quando è giusto farlo e dopo quanto tempo dal rapporto che può essere considerato a rischio. Bene, diciamo sì, è un problema che le dirò è stato molto dibattuto, diciamo, però noi abbiamo due grandi emergenze in Italia. La prima è che da 6 anni non riusciamo a ridurre in maniera significativa i nuovi casi, quindi ogni anno stiamo a contare le nuove diagnosi e quest'anno sono 3.444, cioè questo numero intorno ai 4.000 nuovi casi ogni anno c'è. E questo è un grande problema. Il secondo problema è che noi riteniamo che esistano in Italia circa 16.000-20.000 persone che non sanno di essere infette. Come si può risolvere questo problema? In tanti modi, certo, il primo elemento fondamentale è fare presto la diagnosi. Per fare presto la diagnosi, per cercare di arrivare a queste 16.000 persone, l'idea di permettere a chi vuole di fare il test in maniera autonoma certamente diventa un elemento importante, diciamo. Se n'è molto discusso, come potete pensare, perché certamente fare un test così delicato che possa dare una risposta che può essere anche considerata una risposta estremamente negativa in totale autonomia crea dei problemi. Però è un test che funziona, io personalmente sono favorevole all'idea che questo processo debba essere iniziato e da oggi si inizia, cioè effettivamente si può comprare. Professore, allora l'obiettivo sul quale lei si è soffermato con particolare cura è quello di far emergere il sommerso. Peraltro molti probabilmente hanno anche un po' di vergogna, no? Chiedere il test al proprio medico, temono di doversi giustificare, di dover dare spiegazioni su cose che hanno fatto e di cui non vogliono appunto parlare. In questo caso, questo autotest che troviamo nelle farmacie italiane può essere d'aiuto? Assolutamente sì, devo dire che non bisogna andare dal proprio medico per chiedere di fare il test, no? Esistono tantissimi posti in ospedali, in laboratori anche privati che fanno questo test, al quale uno si può rivolgere spontaneamente e chiedere di fare il test senza dare troppe spiegazioni. Questo è importante ricordarlo perché il test è gratuito e può essere fatto in maniera del tutto spontanea senza dover dare, insista a dire, troppe spiegazioni. Però certamente questo, nonostante tutto, è quello che dice lei, cioè non risolve il problema. Certo. Tanta gente non lo fa lo stesso perché comunque andare in ospedale, non si sa chi si troverà in ospedale, insomma l'ospedale rimane una barriera e quindi bisogna facilitare in tutti i modi di fare questo. Certo. Professore, come funziona? Adesso stavo così ipotizzando, no? Come un test di gravidanza, l'esito è dato da un colore che appare su uno stick, nel senso, come si fa ad individuare un'eventuale positività o negatività? È molto semplice, nel senso che il test, proprio come diceva giustamente lei, è come il test di gravidanza, quindi la comparsa di un colore oppure l'assenza della comparsa di un colore dopo pochi minuti testimonia il fatto che la persona sia positiva oppure no. La domanda che lei mi aveva fatto precedentemente però è fondamentale, bisogna sempre ricordarsi che Andreoni, dove c'è scappato qua qualche volta I telefoni veramente ci si mettono di traverso. Intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, molto attenti a questo delicato argomento che stiamo facendo, che stiamo approfondendo questa mattina. E c'è un ascoltatore che per esempio chiede di rivolgere al professor Andreoni questa domanda: se è possibile, come è possibile che il test funzioni se c'è un periodo finestra di 6 mesi? Adesso lo chiederemo naturalmente. Professor Andreoni, interrotto? No, ma sì, ci mancherebbe, guardi, sono cose che capitano. Certamente, no, le dicevo che è importante ricordare alle persone che il test ovviamente si positivizza dopo almeno 30 giorni dal contagio, no? I test di oggi sono un po' più sensibili di quelli di una volta. Una volta si diceva che questo periodo di falsa negatività, cioè il famoso periodo finestra, durava 3 mesi. No, adesso... addirittura un ascoltatore ci parla di 6 mesi, quindi lei lo ha ridotto ad 1. Assolutamente sì, i test di oggi diciamo ormai raggiungono una sensibilità estrema e quindi riescono a dare questa positività anche addirittura a distanza di un mese dall'avvenuto contagio. Però ecco, fare il test il giorno dopo perché uno ha avuto un rapporto a rischio la sera precedente non ha nessun senso. Benissimo. Quindi bisogna aspettare per essere sicuri almeno un mese. Il mese vale soprattutto per i test che si fanno in ospedale, che sono ancora più sensibili. Questi test qui che si fanno invece in maniera autonoma, diciamo in maniera così di prudenza, conviene pensare che necessitano per positivizzarsi di almeno di un paio di mesi. Allora, e nel caso, professore, no, andiamo al traffico adesso, le chiederò nel caso di un'eventuale positività che cosa bisogna fare. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Cuore e denari. Sai qual è il problema? Che poi non è un problema. Che quando io sto bene non c'è niente che io tema. E so per esperienza, qui lo rappo e qui lo scrivo, com'è difficile fermarsi e dire preservativo. Aspetta HIV, continuiamo a parlare di HIV e AIDS per conoscere naturalmente questo problema, evitare di incontrarlo, farlo entrare nella nostra vita. Oggi è il 1 dicembre e si celebra come ogni anno in questa data la giornata mondiale contro l'AIDS con il professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettiva all'Università Tor Vergata di Roma. Stiamo commentando di questa novità che appare oggi su tutti i giornali. È arrivato nelle farmacie italiane il primo test fai da te per l'HIV, costa 20 euro. Attenzione, naturalmente l'esito ha una validità, professor Andreoni, sicuramente che può essere certificata, però insomma poi meglio andare anche ad un ulteriore controllo nel caso si riscontrasse l'eventuale positività di centri specializzati, no? Questo era un po' il messaggio che volevamo dare. Assolutamente sì, diciamo due cose. La prima, ovviamente, che laddove risultasse positivo, che era la domanda che lei mi ha fatto prima che ci lasciassimo, a quel punto bisogna recarsi in ospedale, nei reparti di malattie infettive, dove il test ovviamente sarà ripetuto, dove saranno fatti tutti gli accertamenti necessari. La seconda cosa, ovviamente, il test diciamo fatto in autonomia può in qualche modo lasciare dei dubbi su come è stato effettuato e quindi direi che di fronte a una negatività, se la persona vuole essere assolutamente tranquilla, e allora nuovamente il consiglio è quello di recarsi tranquillamente in ospedale, dove gratuitamente potrà ripetere il test in un sistema e con metodiche che sono ovviamente molto più accurate e affidabili, diciamo. Però il test di per sé stesso certamente è valido ai fini di fare uno screening su un largo numero di persone. Per evitare naturalmente la trasmissione del virus, mi pare evidente che la parola d'ordine sia prevenzione, e questa, secondo gli esperti, si articola almeno in due strategie: evitare comportamenti a rischio e sottoporsi ai test, perché, come abbiamo detto con chiarezza all'inizio, c'è ancora un grande sommerso. Ma un esito negativo del test, professor Andreoni, lascia tranquilli per sempre in assenza di nuovi comportamenti a rischio? Dunque, se togliamo quel periodo finestra che abbiamo detto essere importante, in cui la persona deve essere consapevole del fatto di saper riconoscere quando è avvenuto il comportamento a rischio e se è passato un periodo sufficiente in cui la negatività non possa essere legata semplicemente al fatto che non ha ancora sviluppato la sua sieropositività. Ecco, fatta questa eccezione, direi che il test è discretamente affidabile, quindi dà una garanzia, diciamo, al 95%. Se rimangono dei dubbi, insisto a dire, e la persona ritiene che invece non si sente tranquilla su questa risposta, da questo può procedere a fare il test invece a livello dell'ospedale. E ovviamente, insisto a dire, bisogna poi mantenere le precauzioni necessarie. Il test non è che è una garanzia per il futuro, il test tutta più è una garanzia per quello che è successo fino a qualche settimana prima, diciamo. Questo bisogna sempre ricordarlo. C'è una domanda per lei da Giancarlo da Roma, che salutiamo volentieri. Giancarlo, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Niente, io ho sentito che praticamente questo nuovo test è disponibile in farmacia al costo di 20 euro. Sì. Io invece sono dell'idea che il test deve essere gratuito, però fatto da strutture pubbliche, perché chiunque scoprisse di essere positivo comunque potrebbe essere monitorato, attenzionato in un certo senso, mentre chi lo fa da sé in casa magari può scegliere di farlo un tore come quel ragazzo di Ostia, Valentino, che... Il tema è poi, certo, naturalmente, come dire, cosa fare del risultato che si ottiene, se si fa test gratuito dalla farmacia o che sia gratuito, appunto, se si fa test pagamento, appunto, dalla farmacia o gratuito. Il tema poi è, come dire, l'utilizzo, tra virgolette, del risultato. Non so, professor Androni, condivide il suggerimento di Giancarlo? Devo dire a Giancarlo, ovviamente il test è gratuito in ospedale, quindi questo vale per chi non vuole andare a fare in ospedale il test, no? Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo precisare. Si sente tracciato in qualche maniera dal strutture esattamente sanitarie. Questo fatto del test in autonomia è un po' una sconfitta, mi permetta di dirlo, no? Cioè, nel senso che se noi riuscissimo a convincere tutte le persone a venire in ospedale a farsi gratuitamente il test, oggi non staremmo a parlare del test in farmacia a 20 euro, quindi questo, Giancarlo, è importante che venga detto e venga capito, diciamo. E certamente ha ragione Giancarlo, cioè poi il problema è come gestire la sieropositività, e questo è però nell'interesse dell'individuo. Oggi si è capito e si è visto che la persona prima viene trattata e meglio è. I farmaci sono fantastici, sono efficacissimi. Ritardare la diagnosi è un danno gravissimo per se stessi e poi ovviamente per la comunità, perché se uno ritarda il trattamento rischia di infettare altre persone. Esatto. Perché quello che si sa oggi è che la terapia, oltre a funzionare nel senso che non fa progredire la malattia, è validissima anche per ridurre al massimo la trasmissione dell'infezione. Mi fa piacere che tocca il tema della terapia, professore, perché un ascoltatore lamenta, Renato: parlate sempre di prevenzione mai di cure, a noi HIV non resta che morire, ci mancherebbe altro. Allora facciamo un piccolo focus, anche perché vale la pena, su questo. Nel tempo le terapie sono cambiate radicalmente, anche perché è cambiato continuamente proprio il virus, no, professore, al punto che ha richiesto continui cambiamenti anche del vaccino per poterlo prevenire. Assolutamente sì. Devo dire, mi dispiace che il nostro radioascoltatore dica queste cose, perché le terapie di oggi sono efficacissime. Tenga presente che in Italia, in cui c'è un monitoraggio molto, molto attento, di tutte le persone trattate il 95% ha una risposta ottimale al trattamento, cioè il virus non può essere più visto nel sangue di queste persone, che non vuol dire essere guariti, ma vuol dire che il trattamento è talmente efficace che non fa vedere più il virus nel loro sangue. Quindi terapie buonissime, efficacissime, però la gente si deve curare, deve capire che i farmaci devono essere presi con assoluta regolarità e che ovviamente non siamo ancora in grado di eradicare l'infezione, ma siamo in grado di permettere ai nostri pazienti di avere un'aspettativa di vita che è virtualmente simile a quella dei soggetti sieronegativi. purché si curino e si curino bene. Il Corriere della Sera oggi intitola: riparte la corsa al vaccino anti-AIDS, la sperimentazione in Sudafrica su 5.400 persone. Quali aggiornamenti dare sul fronte vaccinazione, professore? Purtroppo, se ce la fa in 20 secondi, l'informazione essenziale. Sì, diciamo, riparte questo vaccino che ha dato buoni risultati in Thailandia, vediamo cosa succede. Abbiamo avuto tante delusioni, ma speriamo che sia la volta buona. Professor Andreoni, grazie per essere stato con noi, con Nicoletta Carbone. Torneremo senz'altro su questo argomento che vedo ha scatenato gli ascoltatori. Intanto noi ci fermiamo, abbiamo il giornale radio, poi vi do anche un aggiornamento sulle informazioni. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Money, get back. Durissimi Pink Floyd ci introducono allora al nostro tema del giovedì. Oggi lunghissima la parte dedicata ai denari. Prima di partire però volevo salutare i tantissimi ascoltatori che hanno immediatamente raccolto il nostro invito di inviarci delle foto dal punto in cui si trovano adesso. Allora, intanto saluto particolarmente Vera su Facebook, che ci scrive da Sydney, 17.000 chilometri da qua, quindi non solo dagli Stati Uniti ma anche dall'altra parte del globo. Vera appunto ci ascolta dall'Australia. Poi salutiamo Carmen, che ci ha mandato su WhatsApp la foto della potatura in Abruzzo. Laura dalla finestra di casa sua a Imberzago, Lecco. E poi ci saluta anche Gianmarco, studente MBA nella City, ci saluta appunto da Londra e ci manda la foto dell'alba di stamana appunto sul terrazzo di casa sua. Ma insomma ne stanno arrivando anche tante altre, così come l'ascoltatore che adesso saluto, Marco da Verona, che ci invia la foto delle cruscotto della sua auto, perché lui evidentemente ci segue in macchina. Da dove ci segue Gerardo Graziola di Radio Cor il Sole 24 Ore? Non lo sappiamo, sicuramente lo possiamo seguire noi adesso in radio con i suoi aggiornamenti sulle delicate vicende di Monte dei Paschi. Gerardo, buongiorno. Sei a Roma. In ufficio, naturalmente, in religioso, davanti religiosamente, appunto davanti alla postazione dell'agenzia. Allora, Gerardo, andiamo un po' a vedere intanto il titolo oggi, come al solito, sulle montagne russe, -1,40%. Il gruppo ha tante cose da raccontare per questa settimana, appunto, è iniziata la prima fase del complesso aumento di capitale che prevede al momento questa conversione delle obbligazioni subordinate in circolazione appunto in azioni. Al momento sappiamo quasi per certo che è Generalia ad aver deciso di convertire i suoi 400 milioni di bond. Esatto. E questa era stata, come dire, anche una buona notizia, perché per i vertici della banca in sostanza si era detto hanno adesso un argomento in più per convincere gli altri investitori istituzionali in particolar modo a partecipare alla capitalizzazione del Monte dei Paschi. E ce n'è uno di peso che sta prendendo una decisione: il fondo sovrano del Qatar. A che punto siamo da questo lato? Sì, infatti, come hanno anticipato i colleghi del quotidiano, molto probabilmente entro il weekend o forse lunedì si saprà lunedì, l'annuncio. Esatto. Lunedì non è una data casuale, purtroppo, perché il referendum costituzionale sta pesando nettamente su questa operazione molto molto delicata e molto complessa. Appunto, aumento di capitale che non si sa se sarà di 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo, dipende appunto da quanto sarà l'ammontare della conversione. E la speranza è che la banca riesca a trovare questo investitore ancora o anchor investor, come dicono in inglese, che possa prendere una quota rilevante e appunto essere il pivot del nuovo azionariato che emergerà dopo l'aumento. Quindi insomma è abbastanza probabile che il Qatar decida a seconda dell'esito del referendum, e quindi non aveva proprio torto il Financial Times che diceva banche a rischio a seconda del risultato referendario, perché è vero che la comunità finanziaria internazionale deciderà poi come muoversi sul nostro mercato a seconda del risultato elettorale, Gerardo. Ma sicuramente io distinguerei una cosa è la questione del Monte dei Paschi, più complessa e più difficile. Le altre banche, addirittura il Financial Times citava la Carige, che c'è sicuramente un piano di ristrutturazione in corso, ma non vedo una situazione così altrettanto delicata. Per le banche ponte in vendita c'è una trattativa avviata con UBI, si spera che poi si troverà la quadra della certo. situazione. Certamente per il Monte invece cosa succederà lunedì è una questione molto molto importante. Gerardo, allora, tra l'altro, operazione di ricapitalizzazione necessaria da almeno 5 miliardi. Una quota verrà fuori dalla conversione delle obbligazioni in azioni e poi tutto il resto sarà effettuato secondo una procedura appunto di aumento di capitale ordinaria appunto richiesta sul mercato. Sì. Ai prezzi che sono stati più o meno definiti, 24,90 euro, il titolo viaggia intorno ai 21 dopo il raggruppamento di azioni che è avvenuto lunedì. Esattamente, sì, è stato fatto un raggruppamento di azioni in 1 a 100. La banca nei documenti dell'offerta ha scritto di aspettarsi prudenzialmente 1 miliardo di conversione, in realtà loro spererebbero qualcosa in più, anche 1,5 miliardi, e quindi sarebbe un bel risultato. Certamente i 400 milioni delle generali sono un segnale positivo per gli altri investitori istituzionali. Al momento, esatto, questa operazione lo ha fatto diventare prima azione. Tra l'altro, una cosa che si è detta anche chiaramente in questi giorni. Sì. Il tesoro sta sollecitando, oddio, sollecitare è un termine improprio, sta caldeggiando l'operazione, e ha fatto sapere anche con una dichiarazione pubblica che è un'offerta importante per i bondholder, e il tesoro stesso ha anche detto che parteciperà alla ricapitalizzazione, quindi il 4% del tesoro può considerare la ricapitalizzazione. Gerardo, l'aumento di capitale avverrà comunque a prescindere dalla cifra necessaria a partire dalla settimana prossima, del lunedì, martedì, da quando si sa? Guarda, non si sa ancora e penso che la banca dovrà indicarlo con certezza, penso proprio lunedì mattina, quando vedranno appunto come è andata la conversione, se non ci sarà una comunicazione nel weekend, e appunto qual è il risultato del referendum, che in qualche modo potrebbe condizionare anche il consorzio di garanzia. E poi ecco un altro aspetto che segnala sempre il Sole 24 Ore questa mattina, con uno schema in cui indica tutta la timeline delle operazioni in corso per Monte dei Paschi. Una volta chiuso l'aumento di capitale ci deve essere anche il varo della maxi cartolarizzazione da 27 miliardi e mezzo abbondanti di sofferenze. Sì, anche questo poi, sì, sono poi 9 miliardi nette, e la cartolarizzazione proseguirà lungo tutto il 2017, però appunto gli effetti sono anticipati per la banca da un prestito ponte che appunto sempre tramite le banche del consorzio verrà erogato. Questo è un po' il punto della situazione. Ieri tra l'altro il consiglio di amministrazione della banca si è riunito proprio per fare il punto sulla conversione dei bond, no? A parte le notizie su Generali, abbiamo anche altre informazioni su altre istituzioni che stanno convertendo? È emerso qualcosa? Sono molto abbottonati e non fanno trapelare indicazioni, anche perché penso che poi un quadro ci sarà venerdì, nel senso che poi come sempre gli investitori istituzionali aspettano per convertire, non ho mai capito perché si aspetta sempre l'ultimo giovedì momento. E venerdì. Ah, sì, ecco. Esatto. Vabbè, senti, ultima cosa, poi ti saluto, Gerardo. Oltre al fondo del Qatar, si vociferava nei giorni scorsi anche di grandi fondi internazionali pronti ad entrare nella ricapitalizzazione. BlackRock e PIMCO, parliamo dei giganti dei fondi di investimento mondiali. Già oggi non ne troviamo traccia sui giornali, secondo te? Lì siamo nel campo della pura speculazione. Sono stati infatti questi nomi, probabilmente hanno avuto, anzi certamente hanno avuto dei colloqui con il management della banca, che è ancora in giro, l'amministratore delegato era a New York ieri per ulteriori colloqui, Bisognerà vedere, certamente quello è il target di potenziale nuovo socio del Monte dei Paschi. Gerardo, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Gerardo Graziola, collega di Radio Cor, il Sole 24 Ore, lasciando Monte dei Paschi e lo specifico della Borsa italiana con la trepidazione delle attese per il referendum di domenica. Adesso andiamo a tutti gli altri temi di mercato, ne abbiamo in abbondanza, davvero dagli Stati Uniti dove Wall Street è inarrestabile, il dollaro ai massimi da 14 anni su tutte le valute, abbiamo più o meno formata la nuova squadra di governo di Donald Trump, abbiamo i rendimenti delle obbligazioni che confermano la ripresa in atto da qualche settimana, le banche europee sempre sotto stress, insomma anche oggi la nostra agenda è piena. Investire informati. Non vi annoiate proprio fino all'ultimo. Lorenzo Alfieri, Head of Italy di JP Morgan Asset Management, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. L'ultima a tutti. Puntata dell'anno anche con lei, poi la lasciamo in pace, insomma abbiamo stressata veramente in abbondanza. Allora intanto investire informati, temi di mercato e se volete anche la vostra partecipazione all'800240024, inizia oggi l'ultimo mese di questo 2016. Io adesso lo chiederò a Lorenzo Alfieri, ma voglio chiedere anche a voi, in particolar modo agli appassionati di economia e finanza, se ci raccontano qual è stato il tema che li ha più colpiti dall'inizio dell'anno. Vi abbiamo stressato in ogni modo con la crisi cinese, con il crollo, poi la ripresa del prezzo del petrolio, con la Brexit, con le elezioni appunto di Trump e tutto lo sconvolgimento che c'è stato sui mercati legati, sconvolgimenti, in qualche maniera turbolenze, movimenti, fermenti legati ovviamente a queste vicende politiche, poi ancora le politiche monetarie, quello che fa la Banca Centrale Europea, quello che fa la Federal Reserve, raccontatecelo se c'è stato un tema particolarmente vistoso e forte ai vostri occhi. Ma Alfieri, lo chiedo anche a lei, i mercati sono erratici da così tanto tempo che non ci sorprende più nulla o tutto sommato se lei dovesse un po' guardare a ritroso quest'anno c'è stato qualcosa che davvero non si sarebbe mai aspettato di dover commentare invece con noi ha dovuto farlo? Ma sicuramente direi che quest'anno due almeno sono gli aspetti, gli angoli molto interessanti. Da una parte il fatto che i mercati in due occasioni almeno, ma probabilmente anche qualcuno in più, hanno completamente sbagliato le previsioni e hanno anticipato in modo completamente sbagliato poi i risultati. Faccio riferimento alla Brexit e ovviamente alle elezioni recenti in presidenziali negli Stati Uniti. Con movimenti anticipatori che sono stati, lo sappiamo tutti, completamente sbagliati e soprattutto contraddetti dalla realtà dei fatti, e dall'altra parte una forte accentuazione soprattutto nel 2016 nel cambiamento di scenari. Rapidamente si è passato da una visione all'altra. Solo negli ultimi giorni, vi ricordo che fino a pochi giorni fa parlavamo di una profonda deflazione, sì, con rischi recessivi e quindi tassi abbondantemente sotto lo zero. L'Italia è riuscita a emettere un cinquantennale per la prima volta, tassi assolutamente molto interessanti. Oggi siamo qua a parlare di rischi inflazionistici crescenti e quindi ovviamente la curva dei tassi, tanto per intenderci il livello dei tassi presenti sul mercato, sono radicalmente cambiati. Ecco, diciamo che nell'arco di 15 giorni si è passati dal freddo al caldo, quindi esatto, dall'inverno più profondo all'estate, certo, più calda per quanto riguarda ovviamente la dinamica dei tassi. Certo. Senta Alfieri, le posso chiedere se tutto quello che è successo quest'anno vi ha portato in qualche maniera a riconsiderare le vostre modalità di fare previsioni? Ogni società di investimento, anche le più importanti come la vostra, ovviamente devono prendere in considerazione ogni scenario possibile, no? Anche gli estremi, peggiori, i famosi cigni neri. Detto questo, data proprio la difficoltà che abbiamo evidente oggi, che ci ha messo a dura prova la credibilità appunto di tutti, data la difficoltà che c'è adesso di farle queste previsioni, in qualche maniera voi avete riconsiderato anche i metodi per poterle fare o tutto sommato non è cambiata ancora il vostro spirito, quello di continuare a farle, che ne so, rafforzando magari proprio gli scenari assolutamente magari contrari al consensus generale? Ma direi che negli ultimi ultimissimi anni, alla luce di una volatilità molto maggiore e di cambiamenti di scenari imprevedibili, per esempio noi adottiamo un processo per cui creiamo 3-4 scenari possibili e ad ogni scenario diamo una probabilità che ovviamente varia a secondo del momento. Questo è l'unico modo per poter dare all'investitore una serie di panorami, scenari e conseguenzialmente effetti sui propri investimenti e sul proprio portafoglio, e da ognuno di questi scenari viene data una probabilità raggiungimento ovviamente del quadro che si è individuato. È l'unico modo per poter avvicinare ovviamente l'investitore ad innanzitutto avere dei quadri di riferimento e dall'altra parte per ogni quadro avere le conseguenze che potrebbero esserci sul proprio portafoglio. Certo. Intanto il primo ascoltatore che raccoglie il nostro invito a raccontarci qual è il fatto finanziario che vi ha colpito di più in questo 2016, davvero sul lotto volante, Franco ci racconta: mi ha colpito il brutto andamento delle borse europee rispetto al resto del mondo. Alfieri, che ne pensa? Ha ragione? Allora, sicuramente l'Europa ha mancato anche in termini di aspettative. L'Europa risultava all'inizio del 2016 un'altra, tra virgolette, storia di investimento molto interessante. È chiaro che ha giocato a sfavore dell'Europa la consapevolezza da parte degli investitori internazionali che già si temeva prima della Brexit, ma dopo la Brexit un continente, possiamo dire un'area regionale molto spaccata, frammentata, dove non si riesce a trovare un'unità politica, economica e finanziaria conclusiva. Quindi il processo, diciamo, di europeizzazione è stato interrotto, e questo ovviamente è un elemento molto penalizzante per gli investitori internazionali, dove, che preferiscono la certezza all'incertezza. Certo. Continuate intanto a scriverci al 349-238-6666 con l'SMS o con WhatsApp, oppure chiamateci se volete al 349-238-6666. Andiamo a Donald Trump. Squadra di governo più o meno pronta, quantomeno la squadra economica. Abbiamo questo impronunciabile nome al tesoro, Mnuchin, anche in questo caso una figura nominata naturalmente non senza polemiche, perché è un ex banchiere di Goldman Sachs, e quindi l'avevo provocata l'altra volta Alfieri sul fatto che sembrava pronto l'amministratore delegato di JP Morgan Mondo, Jamie Dimon, a prendersi appunto questo impegno. Invece è andato ad un altro, e c'è anche il segretario al commercio Wilbur Ross. Detto questo, andiamo in particolar modo all'effetto Trump sui mercati e l'economia. Le promesse, gli investimenti pubblici, le prospettive di crescita americana. Due giorni fa abbiamo avuto il dato sul PIL del secondo trimestre, mi sembra al 2-3%. I rendimenti delle obbligazioni a medio e lungo termine che da un mese hanno ripreso a salire. Buona cosa o no, Alfieri? Ma direi che sicuramente in un'ottica di ragionevolezza dei rendimenti siamo tornati ovviamente in scenari più accettabili. Come ricordavo all'inizio, fino a poche settimane fa eravamo in uno scenario profondamente recessivo con rendimenti su molte scadenze inferiori allo zero, e abbiamo riscontrato che a lungo andare rendimenti negativi persistenti creano molti squilibri. Oggi abbiamo visto come i rendimenti stiano tornando sostanzialmente o allo zero o in alcuni casi anche al di sopra dello zero, finché ovviamente rimaniamo in un ambito di tassi di interesse ragionevoli. Questo è un elemento positivo per l'industria finanziaria, ma anche per il risparmiatore. Allora, tra l'altro, a proposito di rendimenti, ovviamente in questi giorni l'altro tema caldo, io vorrei proprio provare a non parlare di referendum, però qualche affetto sui mercati, questa attesa lo ha manifestato naturalmente, mi ha parlato tantissimo, in particolar modo si è divaricato di nuovo lo spread fra BTP e Bund, è arrivato oltre 190 punti base per poi scendere in maniera vistosa, e naturalmente proprio nei giorni scorsi qualcuno ha raccontato di queste indiscrezioni raccolte nell'ambiente della Banca Centrale Europea, all'interno della quale si sarebbe detto che è possibile l'ombrello della BCE sui titoli di Stato italiani se fosse necessario post referendum, se il risultato elettorale non fosse nelle attese appunto del mercato, sarebbe pronto questo nuovo intervento. Quanto ci possiamo sbilanciare su questo aspetto, Alfieri, che mi pare estremamente delicato. Ma mi sembra ragionevole aspettarci da parte della BCE una continuazione della sua politica monetaria espansiva e di controllo ovviamente di certe dinamiche. È presumibile che Draghi prolunghi dopo marzo questa fase ovviamente molto importante di acquisto. Oggi più di prima è più facile per la BCE andare a acquistare titoli di Stato, perché non ci dimentichiamo, come dicevo prima, che fino a qualche settimana fa il problema era che c'erano titoli di Stato che non potevano essere acquistati perché erano troppo negativi in termini di rendimento. Oggi con il rialzo dei tassi è più facile e ovviamente la BCE rimarrà molto guardinga. Non ci dimentichiamo che nel 2017 avremo le elezioni in Francia, in Olanda e in Germania. È presumibile quindi che l'ombrello, come giustamente dicevi, della BCE rimarrà aperto anche oltre marzo, perché comunque ovviamente una fase delicata e critica non è ancora stata superata in Europa. Intanto Alba ci invita per le previsioni economiche del 2017 ci invita a contattare il mago Otelma, che ci azzecca molto di più degli esperti che generalmente invitiamo. Alba, guardi che ritengo che lei abbia ragione, è diventato difficilissimo farlo per tutti. Non a caso da tantissimi anni Sebastiano Barisoni a Focus Economia fa sempre l'ultima puntata dell'anno, l'ultima puntata di Focus Economia appunto di dicembre, proprio invitando un'astrologa che racconta quello che prevede per i mercati finanziari. Adesso bisognerebbe andare a ripescare la puntata dell'anno scorso per vedere se avesse a sua volta previsto Brexit, Trump e tutti i temi che hanno scaldato i mercati finanziari quest'anno. Intanto, per continuare a scaldarvi, vi racconto cosa succede in borsa adesso, poi torniamo con Investire Informati. Abbiamo tanti argomenti, abbiamo il collegamento con il nostro Enrico Marro che ci racconta qualche curiosità finanziaria, poi dobbiamo parlare anche di OPEC e della storica decisione presa ieri di ridurre i tetti produttivi. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Una monetina a te, una a te, una monetina pure a te. Così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Buongiorno, tutta la mattinata che omettete di parlare della pronuncia del GUP di Arezzo nella vicenda di Banca Etruria, perché è notizia stravecchia di ieri, lo dico all'ascoltatore, per cui guardi, ieri ampiamente i nostri radiogiornali si sono interessati appunto dell'argomento, per cui inutile ritornarci stamattina e ci andiamo un po' su notizie più fresche, quindi questo per precisarlo al nostro ascoltatore Alessandro che ci scrive da Larciano, evidentemente località di quelle zone. Allora, torniamo sui nostri mercati finanziari. Abbiamo parlato a lungo, non solo stamattina ma anche nei giorni passati, dei record di Wall Street generati dalle promesse elettorali di Donald Trump di fare massicci investimenti pubblici, rilanciare ulteriormente l'economia americana, che poi tutto sommato non se la passa male attraverso questa modalità generando inflazione. Per qualcuno però la corsa del mercato americano non è finita. Il Dow Jones è a 19.123 punti, intorno ai 2002 lo Standard & Poor's, e sui record anche l'indice delle piccole capitalizzazioni Russell 2000. Allora, perché la corsa non è finita? Chi lo dice? Non lo dice il mago Otelma, su cui abbiamo scherzato stamattina, neanche qualche altro sciamano, ma uno speciale guru del mondo finanziario americano, che in fatto di previsioni ha una lunghissima esperienza, se non altro per l'età anagrafica che ha e che lo ha visto molto impegnare gran parte appunto della sua vita su previsioni di questo tipo. Allora, ci racconta tutto il nostro inviato speciale nel mondo delle curiosità finanziarie, Enrico Marro, della redazione online del Sole 24 Ore. Enrico, buongiorno. Di chi stiamo parlando? Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Stiamo parlando di questo simpaticissimo ardillo vecchietto, possiamo dire, 93enne, che si chiama Samuel Eisenstadt e che molto tempo fa ha iniziato a mettere a punto un suo modello econometrico continuamente perfezionato, perché iniziò, diciamo, subito dopo aver prestato servizio nella Seconda Guerra Mondiale. Si tratta naturalmente di uno statistico, questo Samuel Eisenstadt. Questo modello si chiama Value Line Stock Ranking System ed ha, diciamo, rilascia previsioni di sei mesi in sei mesi che si rivelano straordinariamente precise, più precise di quelle di diciamo prestigiosi e ben più quotati osservatori. Ecco, l'ultima delle previsioni che Samuel ha, diciamo, rilasciato dal suo appartamento nei Queens, perché giustamente è in pensione. Sì, beh, direi, però insomma sempre mantiene il cervello attivo, esatto, con il suo modello econometrico, sì? Esatto, l'ultima previsione rilasciata in tempi non sospetti, cioè prima della vittoria di Trump, dava l'indice Standard & Poor's 500 tra 2270 e 2310 punti alla fine di aprile 2017, cioè circa il 5-4-5% più in alto di dove adesso, molto più in alto di dove era allora. E, è interessante perché più o meno nello stesso periodo, o comunque dall'estate in poi, molte banche d'affari invece davano molto probabile una significativa correzione. Invece, diciamo, oggi come oggi, molte banche d'affari danno come probabile raggiungimento, leggevo ieri addirittura, del 2400 punti di Standard & Poor's e 500. Quindi diciamo, e poi anche la storia di questo SAM è degna di un romanzo, perché in sostanza questo suo modello econometrico ha iniziato dagli anni 60 ad attirare l'attenzione del mondo scientifico ed è stato incoronato addirittura da Fisher Black, che è l'economista autore di un'equazione che chi ha fatto studi economici conoscerà, quella di Black & Scholes, che si usa per le opzioni. Insomma, c'è chi ci azzecca. Allora, nonostante questo 2016 lo non passeremo sempre, alla storia. Esatto, non sempre, però insomma pare che mediamente le sue indicazioni sono di ulteriori crescite degli indici americani. Enrico, prima di salutarci, in realtà dammi un assist buono per parlare del prossimo argomento. Devo parlare di petrolio dopo quello che ha deciso ieri l'OPEC, ma molte case d'affari molto importanti stanno ragionando a lungo su quello che sarà il percorso delle materie prime l'anno prossimo. Se l'economia americana prenderà a crescere, naturalmente anche le commodities faranno altrettanto. Chi lo dice? Molte banche d'affari pensano che dopo il terribile 2015 è quello, vi ricordate, del crollo delle commodities, è un 2016 in cui le materie prime hanno arrestato la caduta, hanno ripreso mediamente a salire. Il 2017 sarà l'anno da incoronare, per tutta una serie di ragioni, ma soprattutto per quello che chiamano gli americani il famoso reflation trade, cioè il ritorno dell'inflazione moderata, la reflazione. E per esempio leggevo tra le varie analisi e previsioni, Goldman prevede l'ambizioso target di rialzo del 9% per le materie prime in generale in 3 mesi e dell'11% in 6 mesi. Diciamo che per quanto riguarda il petrolio, diciamo, Corrieri il 9% l'ha fatto, tra 3 mesi non so dove sarà, però. Enrico, grazie per essere stato con noi anche questa mattina, ti ringrazio, come ti dicevo, soprattutto per questo assist sul petrolio, perché ieri c'è stata questa, vabbè, qualcuno l'ha definita storica, ma insomma era ormai necessaria una correzione dei tetti produttivi, decisione presa ieri a Vienna. Siamo tornati intanto per questa riduzione di 1,5 milioni di barili al giorno a ridare un po' di sostegno al prezzo, $50 al barile. Lorenzo Alfieri, JP Morgan, è un livello di equilibrio per il mercato? Il petrolio è importante anche perché può essere un fattore che si lega, è un fattore che si lega all'inflazione. Insomma, quanto conta anche per i vostri scenari predittivi? Sicuramente, ovviamente, l'alta volatilità del petrolio ha creato difficoltà nel poter definire strategie di investimento. Oggi è stata presa ieri una decisione ovviamente particolarmente importante, che cercherà ovviamente di riportare a un livello più congruo, che sembra essere ovviamente nell'intorno sopra i $50 al barile. Però è significativo il fatto che lo scenario oggi come oggi è molto diverso rispetto al passato. Questa presa di decisione non necessariamente deve essere considerata una presa di decisione che storicamente rinizierà a portare il dollaro a livelli molto alti, elevati, sopra i $100. Perché? Perché al tavolo delle trattative ci sono dei nuovi convitati, che sono, non ci dimentichiamo, la Russia, paesi che sono stati alla finestra e non potevano esportare, o meglio estrarre ed esportare fino a poco tempo fa, e soprattutto c'è ovviamente un nuovo attore che sono gli Stati Uniti, esportatori netti ormai anche solo per qualche migliaio di barili al giorno, ma è così, quindi inevitabilmente il quadro è cambiato, l'offerta è superiore rispetto al passato, la domanda cresce a livello mondiale di circa 1-2% all'anno, non in modo quindi vigoroso, quindi o ci aspettiamo una forte crescita a livello mondiale e quindi presumibilmente la domanda rinizierà ad affluire vigorosa sui mercati internazionali, oppure è inevitabile che si cercheranno nuovi livelli di equilibri, ma sicuramente i livelli di $100 è difficile che possano rivedersi nel breve termine. Allora, prima invece di continuare a fare una chiacchierata con lei sul tema dollaro, che mi sembra molto interessante, faccio il domandone ai nostri ascoltatori, così vediamo se li metto un po' in movimento questa mattina. Allora, risintetizzando, l'OPEC ieri a Vienna ha raggiunto l'accordo per il taglio della produzione di greggio a 32 milioni e mezzo di barili al giorno, con una riduzione di circa 1,2 milioni di barili, perché un ulteriore taglio di 600.000 barili al giorno arriverà anche dai paesi non OPEC. Allora la domanda è: da quanti anni non veniva deciso? È facile. Un taglio della produzione, si tratta del primo taglio da quanto tempo? 800 24 00 24, il numero verde per le vostre risposte. Valgono solo le risposte telefoniche, in realtà poi siamo sempre generose, ma possibilmente accontentateci. Prima del dollaro, il traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Cuore e denari. Da quanti anni non veniva deciso un taglio della produzione quotidiana di greggio? Ce lo state scrivendo in tanti. Devo dire che ci sono ancora molti errori, molti stanno azzeccando. Noi intanto vorremmo raccogliere le vostre risposte all'800 24 0024, ma se volete avete ancora del tempo per fare le domande a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Allora, il dollaro vola nel post-Trump, è ai massimi da 14 anni su quasi tutte le altre divise internazionali, più o meno poi i rapporti annuali sono diversi a seconda della valuta di riferimento. Questo livello del dollaro, Alfieri, genera che opportunità di investimento secondo lei, oppure è un problema per chi investe sul mercato americano? No, beh, diciamo che innanzitutto ovviamente un livello di ripresa del dollaro abbastanza contenuto ovviamente può essere anche un'interessante opportunità di investimento e dall'altra parte non crea squilibri. Il problema è chiaramente se il dollaro dovesse continuare a questa forte crescita per rompere magari il livello di parità tra dollaro e euro. Ci sono i presupposti affinché questo avvenga? Al momento per noi rimane difficile poter prevedere un livello di questo genere, perché come appunto stavo accennando le autorità americane inizierebbero seriamente a preoccuparsi della scarsa competitività che le aziende americane possono avere sui mercati internazionali a livelli di dollaro troppo forte. Non ci dimentichiamo che la ricetta di Trump è ovviamente basata sulla crescita, la crescita interna, ma anche necessariamente attraverso una più vigorosa esportazione dei prodotti americani all'estero, per non danneggiare ovviamente i bilanci delle aziende americane, e questo fattore potrebbe invece rivelarsi un boomerang se il dollaro accelera nella sua crescita. Ovviamente le merci americane diventerebbero troppo care e quindi non riuscirebbero più a collocarsi in modo opportuno sui mercati internazionali. Quindi il dollaro si sta recuperando, probabilmente ha già scontato in questa fase una crescita trumpiana, diciamo, con la ricetta di Trump. Bisognerà però aspettare la realtà dei fatti, cioè i numeri del prossimo anno, se realmente questa crescita si innesca. Dall'altra parte ovviamente c'è l'Europa e quindi la BCE, che guarda ovviamente con molta attenzione al rafforzamento del dollaro, e terzo fattore da tenere in considerazione è anche i paesi emergenti, Cina fra tutti, che ovviamente iniziano ad avere serie preoccupazioni se il dollaro si rafforza troppo. Non ci dimentichiamo che uno dei fattori che ha portato a creare forte volatilità e preoccupazioni su mercati emergenti è stato il forte rafforzamento del dollaro, che comunque si accompagna sempre alla debolezza dei mercati emergenti. Senta, vedo che sul tema dei mercati europei stanno ritornando delle domande, non so se è lo stesso ascoltatore che prima ci ha scritto su WhatsApp, adesso ci scrive sull'SMS. Allora, il futuro dei mercati europei, facciamo un piccolo focus Alfieri su questo tema della variante politica che li toccherà assolutamente a partire dall'anno prossimo, per non dimenticare poi il fatto. Ah, eccolo qua, va, abbiamo anche Filippo d'Ascoli Piceno, me lo ha preso al volo Marco appunto dalla regia. Filippo, benvenuto. Sì, più o meno stavamo così percorrendo un po' anche il percorso che vuole dare lei. Buongiorno. Sì, buongiorno, niente, volevo chiedere io. C'è visto lo storno che c'è stato sul mercato obbligazionario, sia americano per via dell'apprezzamento del dollaro, sì, ma soprattutto su quello europeo, quali erano le previsioni? Che direzione? Non corra Fabrizio, mi raccomando. Filippo, si fermi lì. Allora, tema obbligazioni europee con la grande incognita politica dell'anno prossimo e tra l'altro anche questa benedetta Brexit che prima o poi inizierà nel suo processo formale. Alfieri. Ma diciamo, distinguiamo innanzitutto due fattori. Da una parte ovviamente l'elemento tassi, crescita dei tassi negli Stati Uniti, che in parte si è riverberata anche sui mercati europei. Dall'altra parte la questione, per così dire, politica, che è prettamente unicamente europea. Quindi è inevitabile che rimarrà molta volatilità sui mercati obbligazionari, perché la componente politica ha tutta una successione di tappe: referendum in Italia, elezioni Francia, Olanda e Germania. Questo vuol dire che sul tavolo rimarrà per un certo arco di tempo, parliamo ovviamente di più di 6 mesi, il problema del politico in Europa, e questo creerà volatilità e incertezza tra gli investitori. Dall'altra parte l'elemento invece dei tassi, trascinato ovviamente dalla ricetta trumpiana, bisognerà verificare se Trump riuscirà effettivamente a innescare una virtuosa crescita americana. Non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti già crescono a tassi molto consistenti. Gli ultimi dati abbiamo visto che addirittura lo collocano a una crescita previsionale addirittura superiore al 2,3-2,5 per il 2017. Bisognerà vedere se ovviamente Trump riuscirà a innescare un'ulteriore crescita. I mercati hanno scontato nel breve una fase di crescita molto importante. Questo vuol dire che se continuerà a esserci questa crescita negli Stati Uniti e i tassi inevitabilmente dovranno salire per pressioni inflazionistiche, anche in Europa c'è un'ulteriore fase di correzione dei prezzi per portare i tassi degli obbligazionari europei a un livello più alto. Concludo dicendo che in questo momento è molto difficile fare ovviamente degli investimenti nel mondo obbligazionario. Come ho spesso ricordato, il nostro consiglio è rivolgersi a dei professionisti o a dei fondi obbligazionari flessibili, se si vuole ovviamente utilizzare lo strumento fondo, perché è l'unico modo per superare una fase molto delicata dei mercati obbligazionari, che non riguarderà solo una piccola parte del 2017, ma probabilmente si allargherà tutto il 2017. Senta, stiamo andando verso la chiusura, adesso abbiamo le risposte degli ascoltatori al nostro test, ma le chiedo, secondo lei c'è qualche tema che potrebbe, prima di archiviare questo 2016, generare nuova turbolenza in attesa sui mercati? Ma sicuramente un ulteriore forte rafforzamento del dollaro, come dicevo prima, ovviamente qualche evento referendario che potrebbe creare volatilità ulteriore sui mercati europei, e poi ovviamente anche vedere quale sarà la squadra di governo di Trump, che si sta andando formando, ma non ci dimentichiamo che ovviamente poi gli attori sono di fondamentale importanza per inquadrare il futuro scenario di politica adottato da Trump nel 2017. Quindi diciamo che siamo in bella compagnia ancora. Giacomo da Reggio Emilia, da quanti anni l'OPEC non tagliava i tetti produttivi? Dal 1981, 25 anni. No, purtroppo lo ha fatto un po' più di recente. Sentiamo se lo sa Stefano dalla provincia di Bologna. Sono 8 anni. Bravo Stefano. Però noi mandiamo un cadeau anche a Giacomo, se non altro, perché perdono istanti preziosi della loro giornata per chiamarci. Grazie a Lorenzo Alfieri. Buon anno, buon Natale. Grazie a voi. Dal primo dicembre siamo autorizzati a cominciare a fare gli auguri. Ci sentiamo sicuramente con altre puntate di Investire Informati dall'anno prossimo. È tutto, ci ritroviamo domani con Nicoletta. Vi auguro una buona giornata.